Augusto, non hai niente. Niente. Allora che devi? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto. Forse il problema è qua. Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretto a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Tutti lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi. Tabula rasa. Tutti lunedì, dalle 21, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E buonasera, ti vedo chiuso, infatti, hai preso lo spot alla... a riccio. A riccio. Quindi tutti i lunedì, quindi anche questo lunedì, tabula rasa alle 21.19, leggermente in ritardo, ma per motivi più che onorevoli. Poi io ho paura, dopo telefonarti prima che Margherita ringraziava, gli è stato detto non si ringrazia. Cioè, sono un po' terrorizzato, però... entriamo piano piano, anche se in ritardo, dentro Onda Rossa, dentro Tabula Rasa. Oggi, come al solito, andiamo a parlare di due libri. Mi stuzzicano entrambi gli argomenti. Iniziamo con il primo. Allora, il primo è un libro particolare, nel senso che noi di solito siamo qua tra romanzi e saggi, invece oggi abbiamo Il Re del Fornelletto. Ci prepariamo anche noi ad andare in vacanza. Ovviamente il campeggio è la nostra passione, che se ne dica, anch'io se non vado in campeggio, non c'ho la tenda e il sacco a pelo nel materassino e non cucino col fornelletto, diciamo, per me la vacanza non esiste. E quindi andremo a leggere 55 gustose ricette da campeggio alla portata di tutti. Andremo a leggere di questo libro, andremo a parlare di questo libro pubblicato da Terre di Mezzo con Lorenzo e Jacopo, che sono con noi oggi in studio. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. E poi dopo ci sposteremo invece a parlare di un fatto di cronaca che ha in qualche maniera segnato ok, tutte le vicissitudini degli ultimi anni. Si parlerà di Assange. Sì, andremo a parlare di Julian Assange, dall'etica hacker a Wikileaks, fumetto disegnato da Gianluca Costantini e scritto, sceneggiato da Dario Morgante, che sentiremo al telefono. Sto cercando l'editore, lo sai che te lo dico dopo? No, eccolo qui, Becco Giallo, l'editore di questo Julian Assange. Però andiamo con ordine, quindi torniamo indietro. Tra l'altro l'ora è anche congrua, anche se siamo senza tenda, ma all'aperto non sarebbe male perché fa un caldo. Ho acceso pure l'arietta, dai, un po' meglio. Cioè, no? Sì, vabbè, ma a me piace lamentarmi stasera soprattutto, però io sì, tra ma l'altro io non te lo permetto. Io non ho ancora mangiato, quindi andiamo a parlare di cose che si cucinano. Allora, Jacopo e Lorenzo, raccontateci un po' come nasce questo libro, 55 gustose ricette da campeggio da portare di tutti. Diciamo che queste ricette, proprio, allora, innanzitutto, Il Re del Fornelletto, non è i re, il re. Guarda, in realtà il titolo è abbastanza stato uno scoglio grosso, cioè nel senso che noi non riuscivamo proprio a trovare un titolo che ci piacesse e quindi... tutti quelli che trovavamo c'erano dei problemi di copyright con le varie Camping Gas e cose varie. E quindi cioè, pensavamo a Camping Chef e varie cose simili, giochi di parole insomma con campeggio e cucina. Ma... e alla fine la casa editrice ci ha tirato fuori questo e sapevamo che ci avrebbero preso per culo abbastanza tutti, però insomma era un titolo che ci sta, cioè alla fine... sì, è descrittivo e insomma si capisce di che si parla. Anche perché stiamo parlando di ricette di alta cucina, che non roba, insomma, non di alta cucina, riadattate in chiave fornelletto. Allora sì, le ricette sono, diciamo, le ricette sono di Lorenzo, che è uno chef che ha un ristorante, il Torchio a Frascati, E, insomma, il ristorante è abbastanza, le ricette, insomma, diciamo, sono di livello abbastanza di livello, alto, insomma, anche se lui, se non lo dirà mai, lo dico, cioè, io. Cioè, insomma, poi ne leggeremo qualcuna. E so, l'idea, appunto, è proprio quella, era quella di riprovare, insomma, a fare, perché io in campeggio mi faccio uova artecamino, wurstel, insalata dei pomodori, sì, quindi, cioè, appunto, dopo l'ennesima cena, l'ennesima vacanza passata a mangiare male, insomma, quest'estate sono andato al ristorante suo, che stava in ristrutturazione, gli ho proposto quest'idea. E quindi, cioè, l'idea è proprio quella di provare a rifare le sue ricette, però solo con un fornelletto, un pentolino, il classico set, quello da campeggio, proprio easy, insomma. E diciamo che io questa la so, Valerio non la può sapere, però tutte le notti loro l'hanno passate a rifare le ricette e a provarle sul fornelletto. Beh, voglio sapere tutto, innanzitutto dove, cioè se è andato in campeggio apposta, in un giardino, dentro casa, dove? Beh, siamo stati in giardino, un giardino a casa di Jacopo, un giardino a casa dei miei, anche su all'aperto, al Tuscolo, insomma vicino Frascati, in collina. Questo è fare le prove del fornelletto. Le notti sono state più che altro passate a scrivere le ricette, a correggere le introduzioni e le bozze che ci rispedivano indietro, però insomma, divertente, divertente. Dunque, la domanda, le domande, anzi sono una serie, iniziamo da questa. Il re del fornelletto denuncia evidentemente una voglia, lo leggevo adesso anche al volo in introduzione, una voglia di qualità, diciamo, no? Per cui io onestamente associo il camping, come scrivete poi nel libro, al Wurstel, che tra l'altro secoli fa mi provocò un'intossicazione, ecco, proprio in campeggio. E poi più delle volte ultimamente, negli ultimi anni, andando in campeggio, poi si dice vabbè, mi sono spaccato la schiena in tenda, vado a mangiare al ristorante. Però evidentemente invece voi avete una passione anche per il campeggio, perché evidentemente si, certo, è venuta questa esigenza. Quindi la cosa che mi interessava, a parte quello che dicevi, dicevate voi prima, come il fatto di, deve essere difficile pensare di andare a fare una cosa di alta qualità, io ho letto alcune ricette, poi le vedremo, col fornelletto e basta. A parte le prove, quando vi siete visti e vi siete detti facciamo questa cosa, mi è sembrata una follia, è stata un'esigenza vostra? Beh, ripeto, a me quando me l'ha prospettato Jacopo, beh, insomma, sì, la prima cosa, ho detto sì, vabbè, andiamo, lo facciamo, come no? Però poi, insomma, pensandoci piano piano, a mente fredda, cioè la sfida era stuzzicante, era proprio quella, cioè cercare la qualità e comunque un piatto che fosse simpatico, diverso dal solito e comunque di qualità, cercando però di abbattere sia i costi che i tempi, perché naturalmente poi le difficoltà che c'è in campeggio, appunto, dopo una giornata ti sei spaccato in tenda, eccetera, eccetera, perdere un'ora e mezza avanti a un fornelletto dove l'acqua non bolle mai, esce fuori una pasta tutta scotta, incollata. Invece, insomma, con alcune accortezze, sia nel reperimento degli ingredienti, sia nella creazione della cambusa, insomma, dello spazio dove cucinare, ci si può fare. Ecco, iniziamo da questa cosa, la leggevo prima mentre parlavate. Per cucinare discretamente, questo poi vale in generale, insomma, anche a casa devi avere uno spazio degno, che sia abbastanza abitabile, usiamo questa parola qua. Come, dateci un paio di dritte, insomma, se io e Cristina quest'estate andiamo in campeggio, oppure chi ci ascolta, per cucinare in maniera decente, come va organizzata questa cucina? Guarda, allora, le varie prove che abbiamo fatto, cioè nel senso, quello abbiamo cercato di dare dei numeri e delle dritte abbastanza chiare, quindi, cioè, nel senso, non avevamo pensato nemmeno noi troppo mai, perché è abbastanza logico, uno butta la tenda, si piazza là a cucinare, non è che pensi a allestirlo un campo. Quindi invece, quando scrivi su un libro, insomma, abbiamo iniziato a pensare proprio oggettivamente a quanto spazio ci serviva, abbiamo visto che con un paio di metri quadri in realtà bastano alla grande, insomma. L'unica cosa che serve, insomma, è avere l'impiano. e soprattutto distanti dal vento, perché fare delle ricette semplici sì, ma nel senso con il vento insomma è abbastanza complicato. È un classico. E infatti l'unica cosa che crediamo insomma una grande svolta per il campeggio è che è comprarsi prima di partire, oltre al fornelletto, un paravento, che è una cosa stupidissima, che è fatto d'alluminio, a stecche d'alluminio, e sono reversibili, cioè sono piegabili, quindi è abbastanza piccolo e molto pratico. Quindi un paravento e non tipo il materassino, quello di gomma. Quello matrimoniale. Rischio fiamme. Vabbè, comunque qui vedo anche un coperchio con fori, 4 tazze di plastica, 4 piatti, 2 manici per le pentole, insomma c'è tutto. Guarda, quello che abbiamo utilizzato noi è proprio il set che abbiamo, quello di 2 pentole che si incastrano una nell'altra. Cioè, proprio perfettamente quelle cose che ci si porta normalmente in campeggio. Sì, è proprio minimale, insomma, come... Senza partire con la macchina che sembra che, sa, che il campeggio in realtà è di contorno poi. Sì, no, pensavamo insomma a un campeggio da zaino anche, cioè poi chi va in macchina si aggiunge chi vuole, cioè noi abbiamo messo il minimo per andare con lo zaino, poi chiaramente in macchina c'è anche chi si porta, chiaramente poi il campeggio c'è pure chi si allestisce una cucina esagerata che è meglio, quindi quello, cioè il libro, cioè basta un libro di cucina normale insomma anche per loro, quindi questo invece è un libro abbastanza più, di ricette più veloci e più semplici. Allora parliamone un attimo di queste ricette, si parlava del... Allo chef. Si parlava del nemico, del pericolo numero uno nel campeggio, tra l'altro anche per la mia, ma credo l'esperienza di tutti, che è la pasta. Lo dicevate voi prima che a volte... La pasta scotta. Aspetti la pasta come se fosse un incrocio tra Godot e la Madonna, quando arriva vero. È una tipo gomma americana. Parliamo un attimo della pasta, abbiamo visto più o meno come deve essere acchittata questa cucina. Ecco, beh, guarda, ma diciamo che come dire, i consigli sono appunto a partire dal paravento che dicevamo prima, che fa sì che la fiamma arda la grande, e ad anche altri piccoli consigli, tipo accorgimenti, mettere non più di 1,5 litri d'acqua per 2 etti e mezzo di pasta, che sono una porzione abbastanza abbondante per 2 persone, cioè abbondante, sono il giusto, diciamo, per 2 persone. Per una persona, dici? 2 etti e mezzo? Ma non crede! No. È vero, in campeggio poi... però si mangia un po' di meno. E oltre a quello, naturalmente... bisognerebbe cercare di evitare la pasta secca e quindi puntare all'acquisto di pasta all'uovo fresca che cuoce in 4-5 minuti e di conseguenza preparare magari, ecco, evitare anche sughi o cose più complicate, quindi sono tutte ricette quasi con salse quasi a freddo, comunque ottimo, con delle preparazioni molto veloci. Quella più esemplificativa che noi portiamo avanti è per esempio quella con i fichi e il guanciale, che è una ricetta che noi facciamo anche al ristorante, tra l'altro, però insomma è buonissima. Parliamone subito, come si fa? Sono fondamentalmente sbucciati i fichi e conditi con olio, sale, timo, pepe e niente di più, un mestolino d'acqua calda giusto per farli amalgamare un po', prima di mettere l'acqua a bollire fate soffriggere il guanciale e la ricetta è pronta, poi acqua e pasta e va messo insieme fichi e guanciale. Obiettivamente, cioè, è particolare, molto stuzzicante, ci vuole nulla. Diamo notizia che ci sono anche piatti vegetariani, non soltanto di carne e di pesce, ovviamente. Vero, sì. No, perché sono così. No, giusto. Cioè, abbiamo pensato, come no? Come avevamo pensato se mettere o meno la pasta, che c'avevamo anche quel dubbio, perché effettivamente questa storia della pasta scotta scoraggia un po' tutti, però poi... Poi c'è il must del campeggio, il barbecue. Perché chi è che non fa il barbecue quando va in campeggio? Il re del barbecue. Chi è il re del barbecue? Perché insomma in uno di voi c'è nella nota, questa cosa la voglio dire, campeggiatore appassionato ed esperto, quindi adesso il campeggiatore. Questa nota avvio della casa editrice, altra presa per culo di tutti gli amici, chiaramente. Beh, in realtà però col campeggio io, cioè nel senso, sì, quando sono nato mio padre comprò un camper proprio lo stesso anno di nascita, quindi io sopra il camper ci ho fatto praticamente tutto, quindi è una cazzata, però cioè, insomma, manco troppo. Erano tempi insomma anche qua quando ero piccola io, in cui anche la mia famiglia, comunque noi sempre, noi carrello tenda, si andava sempre solo in campeggio, poi casomai c'erano gli anni in cui si allestiva certe volte un po' la cucina, che sai, le famiglie, insomma la mamma eccetera, un po' allestiscono, però pur sempre campeggio è, cioè da noi non siamo mai andati, io tutte le mie vacanze per cui mi è rimasta anche a me questa cosa, perché anch'io se non c'è i miei 10 giorni anche settimana di campeggio in tenda non è vacanza. Ma io, no, io ti guardo un po' così perché, vabbè, visto che parliamo delle nostre esperienze, io ho questo peccato originale, ho fatto lo scout e quindi ti è toccato. Che però devo dire che in realtà, in quanto a cucina, lì ne costruivamo di belle. Continuando a parlare di... ci stava raccontando il barbecue, sì, sì, a un certo punto. Allora, il barbecue, cioè, è stato proprio appunto un must, come diciamo, perché appunto campeggio si associa proprio a barbecue. Quello che però abbiamo visto che durante la scrittura del libro, insomma, non abbiamo dato nel libro, non ci sono ricette specifiche né di carne né di pesce, perché qualsiasi cosa butti sopra al barbecue viene bene e viene alla grande. Cioè, abbiamo dato delle piccole accortezze di cottura, cioè non cuocere troppo delle cose oppure cuocerle in maniera adeguata, che magari lo chef dopo vi dà delle piccole dritte, ma la cosa che è importante che abbiamo cercato di fare è prima di tutto come costruirlo un piccolo barbecue in campeggio. Cioè, ci sono quelli, anche abbiamo visto quelli già pronti che costano 5 euro, sono una bomba e sono anche riciclabili. Mazza, tra 5 l'altro. Euro. 5 euro riciclabili. Sì. Tipo Domopack o varie cose del genere. Se no, altrimenti ci sono delle accortezze anche utilizzando per esempio una vaschetta, quella di alluminio, cioè facendo cuocere il sopra una piccola griglia che può essere una qualsiasi cosa metallica, della carbonella, si butta la carbonella sopra dentro la vaschetta d'alluminio e quello è un barbecue perfetto, cioè che si può fare anche in un posto qualsiasi. E invece nelle ricette ci abbiamo messo semplicemente delle salse d'accompagnamento che sono fatte, cioè sono una maionese da campeggio, le salse varie allo yogurt, la salsa alla romana. E l'altra cosa molto figa invece sono i cartocci. Cioè abbiamo nel barbecue chiaramente con carne e pesce, cioè in contorno è uno spreco non utilizzare la potenza, insomma, del barbecue, semplicemente con delle piccole saccocciate di verdure o di altre cose viene fuori in contorno fantastico, cipolle, ci sono melanzana viola al cartoccio, zucchina al cartoccio, cipolla, patate. Quella vabbè, è una... basta perché io tra l'altro stavo leggendo l'indice qui davanti e ce n'è veramente di ogni, perché partiamo dalla pasta e esattamente come un libro di cucina normale, diciamo, indoor, quindi da casa passiamo per la carne, il pesce, le frittate, le insalate, del barbecue che abbiamo detto, addirittura ci sono i dolci. Adesso parliamone un attimo, perché il dolce in campeggio che fai? Ti prendi un ghiacciolo al bar, no? Beh, volendo anche quello si può condire con una delle salse che ci sono qui, una salsa un bel gelato comprato, si fa una salsa mu veloce, ce lo condite e via. No, beh, i dolci chiaramente sono forse volendo un po' una forzatura, però insomma nell'introduzione abbiamo scritto chiaramente è più un divertissement, come dire, cioè è divertente così, se arrivate a fare i dolci voglio dire siete dei pazzi di cucina, perché noi li amiamo e li stimiamo, per cui due o tre ricette veloci ce le abbiamo dovute mettere chiaramente. Una cosa che mi interessava, prima Jacopo parlava del fatto che appunto ti è venuta questa idea e l'hai proposta, vediamo che se ne può fare. La cosa che mi chiedo, lo dico a scherzo, come gli è venuto in mente a terra in mezzo di pubblicarvi? Nel senso, scherzi a parte, qual è stato il contatto, come mi è venuta in mente questa casa editrice? Ricordiamolo che poi ha una specificità particolare, Terre di Mezzo, insomma. È la casa è collegata al giornale di strada che ormai da anni circola per Roma, Milano e così via. C'era una connessione? Avete pensato che fosse una casa editrice giusta? Guarda, come succede di solito, c'è sempre un contatto diretto. Cioè, nel senso, io ho un amico che lavora in Terre di Mezzo, ma loro hanno una linea anche sui cammini e sulle percorsi. Quindi hanno dei libri che sul Cammino di Santiago, sulla Via Francigena. E quindi si stanno specializzando anche su quel tipo di cosa. In realtà io gliel'ho proposta così, come una cazzata personalmente a questo mio amico. In realtà loro hanno risposto dicendo la classica risposta: sì, va bene, bella l'idea, ti facciamo sapere. Poi in realtà non sappiamo nemmeno noi che è successo, perché loro ci hanno detto sì, lo facciamo, ma nel 2013, adesso abbiamo già tutta la linea editoriale pronta, tutto fatto. Invece a febbraio ci hanno alzato, cioè al telefono mi hanno chiamato, mi hanno detto oh, tra un mese il libro pronto, perché le nottate fino alle 5 passate, deve essere successo qualcosa che non sappiamo. Si era già sparsa la voce. E com'è stato? Beh, prima dell'estate. Voi avevate Barra Capitale devi scrivere già qualcos'altro, è la prima prova. Soprattutto, com'è stato per te che fai lo chef scrivere di cucina? Perché sembra semplice, però in realtà credo che sia particolarmente complesso, nel senso che devi pensare pure al fatto di rendere immediato quello, un conto tu che ti metti davanti ai fornelli sai come fare, però spiegarlo credo che sia un po' più difficile, no? No, no, infatti diciamo che comunque, tanto per questione, ci siamo più o meno divisi i compiti, diciamo che la parte più introduttiva, i capitoli e tutte le organizzazioni, allestimento del campo, eccetera, eccetera, sono materia dell'esperto campeggiatore, naturalmente. Il re del fornelletto. Insomma, no, le ricette naturalmente le ho scritte in gran parte io, però sì, diciamo che infatti la difficoltà più grande è stata quella inizialmente, cioè cercare di semplificare tutti i passaggi e poi visualizzarli, scriverli, perché magari metti là, soffriggi, invece poi bisogna entrare nel dettaglio, insomma, taglia finemente la cipolla, eccetera. Chiaramente bisogna essere pronti per ogni tipo di pubblico, quindi abbiamo... Come no? No, perché, cioè, ci tengo, perché io nei libri di ricette, cioè quelle che in cinque righe, no, io non l'ho mai fatte, cioè nel senso quelle che dicono taglia questo, metti quello, fai quell'altro. Quelle che non spiegano passo per passo come si fa la quindi, ricetta. Cioè nel senso ci siamo proprio messi de buzzo buono, insomma, a cercare di spiegare passaggio per passaggio, magari raccontare degli aneddoti, delle piccole cose per cui scegliamo delle cose piuttosto che altre, perché davvero tecnicamente io quei libri... che la ricetta sta in 4-5 righe, io non l'ho mai fatta. Guarda, io per questo infatti vi devo fare i complimenti, perché leggendole c'era qualcosa che mi colpiva, ora ho capito che cosa. Io normalmente quando vedo le ricette, odio quelle ricette che ti dicono cose del tipo mettete sale o olio quanto basta, che a me mi apre un interrogativo filosofico, mentre invece qui ci sono definizioni come mettete un pizzico di cumino, una decina di albicocche, non albicocche quanto basta, ora... È tutto molto puntiglioso. Ma andando, vabbè, verso, sì, purtroppo la fine, perché sono le 21:39, queste ricette le avete provate, la telefonata è arrivata a febbraio, quindi voi andavate al Tuscolo o in giardino a febbraio a provare queste ricette? Eh già, infatti in condizioni anche abbastanza estreme, per cui il paravento è stata la prima cosa che abbiamo comprato dopo la prima sessione, via paravento. Vai. No, e invece il libro, vabbè, il libro quando è uscito invece? Quando 31 maggio. 31 maggio. Vabbè, quindi siamo proprio... Sì, da pochissimo. Siamo quasi in anteprima. Sì, praticamente sì. La prima presentazione ufficiale che facciamo a Radio Onda Rossa, perché esatto, si sa, sì, una nota radio di campeggiatori, campeggiatrici. Beh, sì. Quindi, anche perché, insomma, fra un po' ne inizieranno tanti di lotte, per cui era un po' questo un invito anche a partecipare. Campeggi lotte ci saranno in futuro e tutta l'estate con il Re del Fornelletto. Però, dove si compra però il Re del Fornelletto? Infatti, dove si compra e poi... Ve lo dico, preparatevi, facciamo questa cosa mainstream, una ricetta. Sì, una ricetta. La ricetta, la preferita, la più facile, fate voi. Però insomma, intanto, dove si trova questo libro? Allora, guarda, con grande nostra sorpresa si trova le grandi librerie, la Feltrinelli, la Mel, okay. Ce l'hanno tutte, anche i siti vari di vendita online. Come è stato vedere il proprio libro? Il proprio io nome? L'ho comprato direttamente da Feltrinelli, perché ho comprato talmente tante cazzate, ho detto adesso ci vado e mi compro il libro mio. Lunedì, appena uscito, mi sono speso i miei 10 euro e l'ho comprato personalmente. Quindi è stata un'esperienza anche quella. La ricetta. La ricetta. Ah, legge Jacopo. La ricetta è il filetto di maiale al pesto rosso, che è la ricetta più odiata dello chef, perché lui cerca da un paio d'anni di toglierla dal menù del ristorante, invece la gente continua a chiedergliela e lui, tra l'altro non so perché, ma non gli piace proprio. Tra l'altro in campeggio è perfetta, perché ci vogliono davvero 15 minuti, è una cosa molto figa da fare, cioè l'ho fatta io personalmente tante volte per provarla, è fantastica. Leggo proprio la ricetta. Certo. Tanto. Allora, filetto di maiale al pesto rosso. L'acidità e la decisa sapidità del pomodoro secco creano un contrasto prelibato con la dolcezza tipica della carne di maiale, mentre il finocchietto caratterizzerà con il giusto tocco rinfrescante il vostro piatto. Questo è lo chef che... Allora, praticamente dovete tagliare il mezzo chilo di filetto di maiale in fette da 1,5 cm e mettetele da parte. Adesso passate alla preparazione del pesto rosso. Tagliate a strisce sottili 5 o 6 pomodori secchi e poi con le forbici ricavatene dei piccoli pezzettini. Versatele in una tazza aggiungendo 5 cucchiai di olio, un trito di prezzemolo, basilico, origano fresco e finocchietto selvatico. Se non riuscite a trovare un cespuglio di finocchietto selvatico, comprate un finocchio e usate le sue barbette per aromatizzare il pesto. Non osate buttarlo perché un'insalata di finocchio è il contorno ideale a questo piatto. Aggiungete alcune olive tagliate a pezzetti e col vostro prendimiele, che è uno degli strumenti indicati nella, da portarsi, battete e girate vigorosamente il composto. In una pentola con poco olio fate cuocere il filetto per circa 6 minuti, girando ogni due. Dopo la prima girata, cioè dopo 2 minuti, aggiungete del cipollotto fresco tritato con una spruzzata di vino o di bianco o di birra. Dipende da cosa avete scelto per accompagnare il piatto. Se siete astemi vi dovete accontentare di un mestolo d'acqua. A fine cottura togliete i filetti e versate il pesto nel fondo di cottura rimasto in padella per rendere così la salsa più succosa e gradevole. Sistemate i medaglioni del filetto nei piatti e nappate con la salsa. Questo è un termine da chef. Visto vabbè, il sapore... giustamente, ci devono stare. Deve stare, sì, è preciso. Visto il sapore decisamente salino del pesto, vi sconsigliamo l'aggiunta di sale e pepe, ma naturalmente l'ultima parola aspetta a voi. Assaggiate e valutate. Questa è una ricetta da 15 minuti. Beh, fantastica, la parte finale che dà finalmente libertà a chi legge la ricetta di fare alla fine come gli pare, perché tanto poi alla fine così fai. Il pizzico del cuoco della cuoca. L'ultima domanda gliela faccio velocemente, che state leggendo? Perché siete pur sempre degli scrittori, noi a Tabula Rasa, chi scrive un po' anche chi legge chi scrive, che state leggendo? Io sto in questo momento proprio, sì, sì. Leggendo Freedom di Jonathan Franzen. Jacopo, io lancio pure il prossimo libro. Mi sto leggendo una graphic novel, si chiama Marzi, sulla Polonia degli anni '80, ah, di Solidarność. Ah, che noi non l'abbiamo presentato. Potremmo. No, perché non sappiamo né il polacco né il francese, tesoro. Quindi. Ah, perché non c'è l'italiano? No, c'è l'italiano, però l'autrice, insomma. Ah. Però ne possiamo parlare, bene, perché possiamo... comunque sì. Ti sta piacendo? Sì, mi sta piacendo molto perché appunto è intimo e personale, però appunto racconta una cosa, una storia che io poi, cioè, ero abbastanza piccolo e invece mi ha toccato personalmente come movimento, cioè nei vari anni poi di crescita. È molto, molto bello, sì, molto... Va bene. Jacopo e Lorenzo, noi vi salutiamo. Il Re del Fornelletto, quindi lo trovate in tutte le librerie, perché più o meno, insomma, nelle grandi librerie, speriamo lo portiate anche nelle piccole librerie. E speriamo che ve lo portiate in campeggio. E ve lo portate in campeggio, nei campeggi di lotta soprattutto. 55 gustose ricette da campeggio, la portate di tutti, perché insomma, anche quando si va in campeggio bisogna mangiare bene. E io c'ho fame, lo sai. Io pure, infatti, cioè, ci ho pensato dopo che venivano loro. Mannaggia, va bene, noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Thank you. È sempre Onda Rossa, 21 e 50 minuti primi, 87.9. Questa, abbiamo appena parlato, insomma, un po' di ricette. Stavamo facendo, volevamo fare una pausa a cibo, ma non ci siamo riusciti. No, loro stavano senza fornelletto ed è il momento del senza, perché siamo anche senza collegamento, a quanto pare. Niente, a volte dato, capita, insomma, dato che cose. Volevamo presentare questo libro di Assange. Non è un libro, in realtà è un fumetto. Sì, è proprio, lo diceva Jacopo prima, una vera e propria graphic novel, una instant graphic novel, perché è uscita a ridosso del cosiddetto caso Assange. Non vi aspettate però una storia pedissequa, perché è molto particolare, nel senso, in alcuni momenti anche l'ho trovato anche un po' faticoso nel seguirlo. Forse è una graphic novel che va letta anche più di una volta, perché le informazioni sono tante, perché la storia è proprio complicata anche della sua vita, immagino, anche perché, insomma, di quello che è uscito da Assange non tutto sia stato, insomma, reso pubblico, e non tutto poi era vero. Quindi mi sembra quasi in qualche maniera che delle cose se le siano dovute inventare. Chi l'ha scritto innanzitutto questo libro? Allora, questo libro, che si chiama Julian Assange, dall'etica hacker a Wikileaks, ed è pubblicato a Becco Giallo, è stato scritto da Dario Morgante, proprio fattivamente scritto, sceneggiato da Dario Morgante, che è e con lui abbiamo cercato di metterci in contatto, ma non ci siamo riusciti, e è stato disegnato da Gianluca Costantini. Andiamo un attimo con ordine. Il tentativo che Costantini e Morgante fanno, credo che sia quello non di raccontare, ma di e neanche di descrivere la storia, ma di cercare di andare dentro la persona. Sì, è molto introspettivo. Cioè, nel senso, cerca di raccontare proprio tutta la storia di Assange, da quando è piccolo, cioè tutti questi flashback di rapporto suo con la famiglia, con la madre soprattutto, dei suoi viaggi, della sua personalità, del perché diventa, insomma, da giovane, sin da bambino quasi, questo suo attaccamento al computer, all'hackeraggio, insomma, per questo un po' forse ha delle complicazioni. Insomma, è un po' più complicato, anche se poi la storia si legge tranquillamente. Sicuramente va, necessita, almeno con me ha funzionato, almeno un paio, se non tre, letture diverse, separate nel tempo, perché questo libro è un pochino, no, che ci gira tra le mani, è un po' che io te ne parlo, ma abbiamo deciso di presentarlo solo oggi, perché almeno per quanto mi riguarda io ho avuto bisogno almeno di un mese per digerirlo, capirlo, comprenderlo e così via, perché sicuramente alla prima lettura risulta molto ostico. Io credo perché il fenomeno Assange, per come è stato sintetizzato anche un po' terra terra dai mass media, assomiglia, così come mi ha raccontato, più a un fenomeno quasi da spionaggio. In realtà invece la cosa che almeno a me ha colpito molto positivamente della graphic novel è il fatto che c'è questa connessione tra il dopo, quindi le rivelazioni di Wikileaks e così via, con una storia personale che alla fin fine fa fare qualcosa che è assolutamente antagonista, quindi andare a cercare quella che non è la verità, assolutamente no, ma è sicuramente qualcosa che viene nascosto. E tra l'altro, rispetto, tu parlavi di alcune rivelazioni di Wikileaks, forse vere, forse false, la policy di Wikileaks è quella di scatenare il flusso delle informazioni, al di là se siano vere o no, l'importante è che avvengano nei centri di potere, nei vari centri di potere in cui si vanno a inserire. Sicuramente questa operazione Wikileaks l'ha fatta, e sicuramente il fumetto va a ricercare le ragioni più recondite della voglia di andare a incidere nei flussi di comunicazione nascosti dei centri di potere. Questa cosa mi sembra che passi proprio, no? Sì, diciamo, bene, parliamo noi tutto il tempo. Sì, diciamo che poi c'è tutta l'etica hacker, insomma, che ne esce un po' fuori, perché poi alla fine, insomma, questa persona era una persona, almeno così viene raccontato. Poi io devo dire che non ho mai più di tanto, sono andata poco ad indagare sulla storia e sulla vita di Assange, cioè, nel senso che è comunque, prima o poi sarebbe accaduto nella rete, comunque nello spirito hacker, quello del, come dicevi te, del far fluire le informazioni, e questo libro in qualche maniera ne è alla base, no? Parla proprio di questo, cioè di come le notizie comunque nella rete debbano circolare, non ci debbano essere dei paletti, e come appunto chi ne entra in possesso, avendo un'etica hacker, il suo lavoro poi è quello di farle circolare. Penso che un po' anche i grandi che adesso lavorano per i mainstream, penso per le insomma, senza fare nomi, comunque tra chi fa i sistemi operativi e chi si occupa della sicurezza delle reti, chi lavora per i sistemi, sia insomma abbia imparato tanto e molto da Lady Gaga, appunto sia cresciuto, diciamo così, è nato con questa idea in testa, per cui le notizie si rubano, si prendono, si danno, e in questo però viene considerato reato, per cui Assange sin da quando è ragazzino poi alla fine c'ha la polizia alle calcagne. Mentre parlavi mi ha fatto venire in mente un film Mondezza che vidi anni fa, non riesco a ricordare come si chiama, era un film australiano mi sembra, o neozelandese, non ricordo, forse era Lantana ma non sono sicuro, in cui c'è un hacker che viene comprato letteralmente da una multinazionale, i suoi amici gli dicono ma che bisogno avevi di andare là, e lui dice signori questi pagano tantissimo, hanno capito molto meglio di noi che le recinzioni sono più bravi a farli i ladri che per anni le hanno tagliate piuttosto che i fabbri, ed è assolutamente così, insomma. Vabbè, noi credo che però, fine ha insomma, fatto Assange? Perché questo non lo sappiamo, cioè nel certo punto doveva stare in prigione, forse no, io oggettivamente non ho più guardato e non ho più avuto, allora, guarda, notizie. Dice internet, e quindi è la verità, l'ho visto stamattina pensando appunto alla preparazione della trasmissione, detta così sembra che chissà quanto prepariamo le trasmissioni, in due minuti sottratti al lavoro, che sembra che da qui a pochissimo passi la richiesta di estradizione da parte della Svezia, perché come ci racconta in maniera particolare il libro, ma come abbiamo visto sui vari mass media, Assange è al centro tra l'altro anche di una storia che di violenza sessuale, dovrebbe essere violenza sessuale, non so bene che verbo usare, che si verificò in Svezia, motivo per cui poi fu fermato in Inghilterra ormai quando, un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, sì, mi sembra. Ormai un po' quello che il fumetto di cui stiamo parlando ci suggerisce è che si tratti di una manipolazione, nel senso che la denuncia venga da qualcuno che è stato pagato dai servizi segreti di questo o quello Stato, probabilmente degli Stati Uniti, che sono comunque tra i nemici più acerrimi di Assange sicuramente. Diciamo che questo tentativo, insieme a mille altri, ha sortito un effetto, perché Assange un anno e mezzo fa era veramente su tutte le pagine dei giornali anche come un paladino non della verità ma quantomeno della trasparenza, diciamo così, del flusso di comunicazione. Sicuramente, anche se i dossier di WikiLeaks continuano a girare, un paio di settimane fa sono usciti fuori quelli sul Vaticano, la stella di Assange è abbastanza decaduta. Questo semplicemente lo registriamo come fatto di cronaca e come conseguenza insomma del meccanismo dell'informazione. Va bene, senti, vogliamo fare gli ultimi due minuti, cosa stai leggendo? Che stai a leggere? Vergogno, lo sai. Perché io pure allora, sto leggendo un libro che mi hanno... Che, vabbè, vai. Guarda, ho finito domenica, un libro che mi è piaciuto veramente da morire, si chiama L'irresistibile ascesa di Harry Starks, è scritto da un inglese che si chiama Jacobs, mi sembra, anzi non mi sembra, si chiama così, che è un libro meraviglioso, però non sto leggendo quello perché ho finito domenica, ho detto fammi vedere questo, quest'altro, mi vergogno per due motivi, primo per il libro, adesso ne parliamo, secondo per il fatto che mi piaccia, perché è scritto da Massimo Lulli, non so se sei presente, no, giornalista di Repubblica che... seguiva prima la cronaca romana ai tempi in cui io e te eravamo giovani, e adesso invece scrive sulle pagine nazionali, e il libro si chiama Il Lupo, è uscito un paio d'anni fa, è la storia di formazione di un ragazzo di buonissima famiglia che incontra un barbone in una città che dovrebbe essere Roma anche se non è così connotata, e piano piano, un po' per aspirazione, un po' per deviazione caratteriale e esistenziale, si trova lui stesso a diventare un homeless, per usare questa parola anglofona, e insomma la storia non è scritto malissimo, è un po' ingenuo, si vede che lo scrittore è un giornalista, però insomma mi sta intrattenendo. Allora, invece io sto leggendo due libri, uno è quello che dovremmo presentare, che presenteremo fra due settimane, quindi è Carolina Cutolo, Romanticidio, così l'annunciamo e non dico altro. Che è il prossimo libro che leggerò io, allora me lo passi. E qui, ovviamente. E l'altro è un libro, insomma, che mi è stato dato così perché bisognava leggerlo, ed è Limbo di Melania Mazzucco. Bisognava leggerlo, spiega. Così, sai, io intanto lavoro in una libreria, quindi sì, certo, per poter vendere i libri devi anche leggere, e quindi ci si divide i libri, a me mi è toccato questo mattone di Melania Mazzucco, che poi se vuoi un giorno possiamo anche presentare qua, non so se tu lo leggerai mai. Praticamente parla della storia di questa ragazza che scala le vette, come si dice, le fila dell'esercito, e si trova in Afghanistan, quindi, e torna perché gli succede una sorta di nassiria, o comunque ha un problema di esplosione. Un problema di esplosione è fantastico. E quindi, ecco, senta, torna, quindi il libro inizia nel momento in cui lei ritorna in Italia, alla Dispoli, torna insomma quindi alla periferia di Roma, in questo piccolo paese, diciamo così, un agglomerato di case, la Dispoli, e quindi un po' il racconto un po' della sua vita, si scopre un po' la sua vita, un po' c'è l'amore, un po' c'è la storia dell'Afghanistan, e quindi tutto un po' dei motivi per cui si è lì, cosa succede lì, cosa lei vede. Devo dire che insomma lo sto scoprendo piano piano, un po' lo trovo faticoso, un po' anche interessante. Vabbè, io mi vergognavo di Massimo Nugli, dopo infatti... la Mazzucco mi fai 3-0 secco proprio. Vabbè, questi è pure capito, è pure un po' grosso. Come questi son gusti personali, insomma, magari tutti quelli che ci stanno ascoltando stanno leggendo C'hanno la Mazzucco sul Comodino, ci mancherebbe altro. Vabbè Cristina, io penso che essendo passati 2 minuti dopo le 22... Non vedo dall'altra parte. Dopo la ricetta del maiale, secondo la me. Trasmissione, la trasmissione che ci segue, che probabilmente sarà scioccata per la ricetta del maiale. Non lo so. Comunque, l'appuntamento con noi è sicuramente fra 2 settimane. E la metto sul dubitativo. Dovrebbe essere anche la prossima. Non si è capito la prossima settimana. Succede. Però vabbè, tanto. Anche perché so di viaggio, insomma, non è detto, non lo so se ci sarà la settimana vabbè, prossima. Noi, però noi... diciamolo, noi siamo la parte, come dire, stanziale e triste di Tabula Rasa. C'è Bizio invece che è un po' l'avventuriero. Lui i romanzi li vive, non ne parla, giustamente. Gli hai detto sta cosa fantastica. Gli hai fatto sto complimento, che insomma così se lo merita. Ma sì, comunque, vabbè, ma... va bene. Comunque, noi vi salutiamo, è stato un piacere, alle 22.03 minuti, noi vi lasciamo alla trasmissione dopo che andremo a recuperare. E... Non prima però di parlare dell'appello, scusa. Vedi? Oh, bravo. Grazie. Allora, praticamente vi facciamo questo, visto che si parla di un appello al mondo della cultura, quindi in qualche maniera, insomma, ci sentiamo quasi un po' partecipi. La radio già ne ha parlato sabato scorso, in questo redazionale che è stato fatto con l'avvocato Romeo. Il 13 luglio prossimo ci sarà questa sentenza di Cassazione per devastazione e saccheggio contro 10 manifestanti che si trovavano a Genova nel luglio 2001, alla fine, insomma, dopo 11 anni. Tu c'eri a Genova, no? È spento il microfono. E avevi già chiuso tutto. Io c'ero a Genova così, come vedi adesso, col microfono in mano. Appunto, dentro c'era Radio Gap, e per cui diciamo che dopo 11 anni Genova si sta ormai quasi per concludere. In questi giorni proprio c'è la Cassazione per i fatti della Diaz, dove insomma più o meno sui giornali avete letto le responsabilità politiche sono scivolate via. Gli unici che pagheranno poi dopo 11 anni appunto sono questi 10 manifestanti accusati di un reato, devastazione e saccheggio, creato sotto il fascismo. E come tanti reati, tanti reati creati sotto il fascismo, poi che dovevano essere smantellati con l'Italia repubblicana, sono rimasti tali e quali, tra cui questo. Gli anni che sono stati dati in appello sono insomma anni pesanti, duri, brutti, perché si parla di fino a 15 anni di carcere per ragazzi che avevano 20 anni nel 2001, che adesso ne hanno 30, o chi ne aveva 30 adesso ne hanno 40, persone insomma che hanno anche una vita, che hanno in qualche maniera cercato anche di superare quella che è stata la vicenda di Genova. È stato creato un sito, si chiama 10%.it, all'interno di questo sito c'è un appello, insomma, vuole in qualche maniera portare la solidarietà innanzitutto a queste persone e dire che Genova non si può concludere così, ma anche puntare l'attenzione sul fatto che il reato di devastazione e saccheggio ci risulta alquanto inaccettabile, insomma, nel 2012, soprattutto perché è un reato che viene dato anche per compartecipazione psichica, che può essere a discrezione dei giudici, per cui per una vetrina io mi becco 15 anni, semplicemente perché il giudice decide che a Genova c'erano i grandi devastatori, che non erano certo gli 8 IGO, quelli grandi che poi hanno portato a sta deriva anche economica, ma erano i manifestanti che non hanno potuto fra un po' neanche muoversi, perché poi se dovessimo parlare di Genova, insomma, tutti lo ricorderai, sarei andato lì dei giorni prima. Sì, quindi, era una non città, insomma. Era una non città, penso che ancora adesso gli abitanti e le abitanti di Genova se li ricordino le inferiate, l'invasione di poliziotti, insomma, vabbè. Tante cose di cui la radio continuerà a parlare, però noi, insomma, in quanto forse vicini a questo appello per il mondo, tra virgolette, della cultura, vi invitavamo a firmarlo. E comunque l'appello non è solo per il mondo della cultura, ma è per tutti. È per tutti. Nel senso che non fosse altro che l'ho firmato anch'io, e nel mondo della cultura, cioè, sto nello stanzino delle scopre del mondo della cultura, ma anzi nella dependance dall'altra parte del giardino, diciamo. Quindi in realtà, a parte l'inutile ironia, l'appello è fondamentalmente per ricordarci ancora di Genova e per non farlo diventare, come dire, soltanto un fatto di cronaca repressiva, perché poi di fatto di questo, questa è l'operazione, che l'ennesima operazione che si sta facendo, quindi di identificare i cattivi a 11 anni di distanza. Questa è una cosa che chiaramente non si può accettare, e per non accettarla uno dei modi sicuramente è quello di sottoscrivere questo appello. Poi ci saranno ovviamente delle altre, insomma, appuntamenti nel corso del prossimo mese, ricordando appunto che poi la Cassazione è il 13 luglio prossimo. In questo mese continueremo noi a parlare di Genova, continueremo a parlare di questo 10 nessuno 300.000 intitolato Genova non è finita. Io invito anche a continuare a parlarne un po' tutti, perché quello che è successo a Genova, insomma, non debba arrivare e finire nel dimenticatoio, soprattutto perché poi alla fine purtroppo la storia si fa anche nelle aule giudiziarie, perché poi i posteri vanno a guardare e dicono ok, a Genova c'erano tutti i cattivi, c'erano solo i cattivi. E in questi giorni, insomma, c'è il processo alla Diaz, e abbiamo visto il film, io non l'ho visto, però ha circolato molto, e quindi, insomma, pensiamo che l'attenzione debba rimanere ancora molto alta. Per noi Genova non è finita, non finirà neanche con i processi, perché la memoria poi è la cosa che più importante che ci rimane e che viene trasmessa, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni che portarono 300.000 e passa persone a Genova, motivazioni che contro questo anche politiche neoliberiste delle banche, che tuttora oggi, ma non voglio attaccare il solito pilotto, però ci troviamo oggi a pagare in maniera consistente. Ok, detto questo, 22.08, 87.9 la frequenza su cui ci state ascoltando, quella di Onda Rossa. Tabula Rasa vi saluta, perché nonostante ci fosse solo un solo libro, ci siamo inevitabilmente allungati, però diciamo l'abbiamo iniziato in ritardo. Vi auguriamo un buon proseguo di ascolto con Onda Rossa, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ciao! Ciao.